Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, l'Istituto Superiore di Sanità, il virus decresce ma non scompare, ripartire solo con il distanziamento sociale. Fase 2, il presidente della Lombardia Fontana intanto chiarisce: siamo pronti a ripartire il 4 maggio se la scienza ci darà il via libera. No a riaprire la scuola a maggio, così la ministra Azzolina, secondo la quale adesso sarebbe troppo rischioso, ma deciderà il governo. Individuata l'app italiana per il tracciamento, anonima e senza geolocalizzazione, il commissario Arcuri firma il contratto con una società milanese. Effetto pandemia anche sul mercato dell'auto, crollano le vendite a marzo, meno 51%. E buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie su Radio 24. A metà giornata, in apertura, le dichiarazioni del presidente della Lombardia Fontana, che precisa la sua posizione sulla ripartenza se gli scienziati ci daranno il via libera. Il 4 maggio noi siamo pronti a ripartire. Poi Fontana parla anche dell'invio di pazienti Covid all'interno delle case di riposo, precisa: sono stati i nostri tecnici a proporcelo, noi ci siamo solamente adeguati. Allora ripartiamo da qua, dalla cronaca italiana. Mentre la task force governativa di esperti guidata da Vittorio Colao è al lavoro sulle proposte per la fase 2, le regioni del nord spingono per avviare la riapertura già dal 4 maggio, ma fanno sapere solo se ce ne saranno le condizioni, senza mettere in pericolo la salute dei cittadini e con il via libera degli scienziati, al momento ancora scettici. Quindi la parola d'ordine è cautela, anche se la curva dei contagi è in calo. E poiché il numero dei casi è molto diverso tra nord, centro e sud, si va dai 63.000 casi della Lombardia ai 300 ciascuno di Molise e Basilicata, è naturale chiedersi se la tanto desiderata fase 2 non debba essere differenziata. Abbiamo il dovere di farci trovare pronti, sostiene il governatore della Lombardia Fontana, che ipotizza un via libera per i cantieri pubblici e privati e di scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5 con orari diversi per evitare l'affollamento dei mezzi pubblici. A lui si allineano anche quelli di Veneto, Sicilia e Piemonte. Quest'ultimo invoca una strategia nazionale. Di sicuro a maggio non si torna a scuola perché ci sono ancora troppi rischi per il ministro dell'istruzione Azzolina. Nel frattempo, via libera del commissario Arcuri all'app per il tracciamento necessaria all'avvio della fase 2. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco parleremo proprio degli aspetti anche tecnici di questa app, che è stata il cui contratto, diciamo, come avete sentito poco fa, è stato firmato oggi al commissario Arcuri con una società milanese. Invece, a proposito della scuola, la ministra Azzolina in una intervista al Corriere dice il suo pensiero: è troppo rischioso tornarci adesso a maggio, ma poi chiarisce: a decidere sarà il governo che sta naturalmente aspettando i risultati della task force guidata da Vittorio Colao per decidere poi come impostare la fase 2. Torna a riunirsi la task force che sta lavorando alla cosiddetta fase 2. Il gruppo di esperti guidati dal manager Vittorio Colao sta analizzando le varie ipotesi per programmare una graduale ripresa delle attività produttive a partire dal 4 maggio, come chiesto da diverse regioni. Già dopo il 25 aprile in realtà potrebbe arrivare il via libera alla riapertura per le imprese di determinati settori come quelli della moda e dell'auto e anche per alcuni cantieri. Quanto alle misure di distanziamento sociale, il divieto di assembramenti resterà in vigore, mentre le limitazioni degli spostamenti dovrebbero continuare per gli over 70 e per i minorenni. Per la scuola si allontana invece l'ipotesi di una riapertura a maggio, il governo deciderà a giorni, ma i rischi sono ancora troppo alti, ha fatto sapere oggi la ministra dell'istruzione Azzolina. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allarghiamo lo sguardo a livello globale. La Cina ha rivisto al rialzo i dati sui contagi sulla città di Wuhan. Al mondo i casi attivi sono oltre quasi 1,5 milioni, quasi 150.000 le vittime. Sentiamo. Arrivano dalla Germania le notizie positive sul Covid-19 col ministro della Salute Spahn, che ha annunciato che la situazione nel paese è sotto controllo. Il tasso di nuove infezioni è sceso sotto i valori più allarmanti, attestandosi allo 0,7. Nella pratica ogni contagiato infetta in media meno di una persona, secondo le stime del Robert Koch Institute. Per il ministro Spahn, che ha annunciato come l'app di tracciamento sarà pronta in circa un mese, la disponibilità tedesca ad accogliere nuovi pazienti dall'estero sarà aumentata. Giovedì la cancelliera Merkel fornirà nuovi aggiornamenti sulla strategia del governo contro la pandemia. Intanto il portavoce della cancelleria Seibert ha anticipato che la Merkel è a favore di una comune reazione europea e pensa che ci sia bisogno di una iniziativa focalizzata sulla ripresa dell'economia in Europa. In Spagna, dove c'è incertezza sulla reale cifra delle vittime dopo il cambio del metodo di calcolo in Catalunya che ha rivisto al rialzo i numeri, il governo ha chiesto anche alle altre comunità di fare lo stesso per fornire dati più precisi. Di numeri a rialzo ne sa qualcosa la Cina, dove la verità sulla reale dimensione della pandemia viene lentamente a galla. Il numero di decessi nel paese è salito di quasi il 40% dopo le nuove 1290 vittime annunciate a Wuhan, città focolaio del virus. Vittime mai conteggiate come malati di Covid-19. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche la Svizzera Roche ha fatto sapere di aver messo a punto un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus. La casa farmaceutica svizzera, si legge in una nota, punta a rendere il test disponibile all'inizio di maggio in tutta Europa. In Italia, invece, è pronta da oggi la piattaforma del Comitato Tecnico Scientifico per la presentazione delle offerte. Per evitare di andare in ordine sparso, regione per regione, azienda per azienda ed effettuare test sierologici efficaci, in arrivo il bando dei kit promosso dalla Protezione Civile per la raccolta delle offerte dalle aziende. Secondo l'OMS, infatti, si deve arrivare a individuare un test unico nazionale con attendibilità del 95% che rilevi gli immunizzati dal coronavirus. E questo rimane l'obiettivo, anche se si sono già mosse le regioni. Il Veneto pronto a partire con 70.000 test, l'Emilia-Romagna arrivata a quota 30.000, Toscana 80.000 test fatti finora. E anche le aziende si sono mosse. Fausto Bonelli, MG Elettronica di Mercatello sul Metauro, tra le Marche, la Toscana e l'Umbria. Sì, siamo già partiti con i test sierologici, abbiamo utilizzato un laboratorio analisi che già ci fa l'analisi normalmente, perché noi siamo un'azienda elettronica, quindi facciamo già analisi del sangue per capire la piombomia all'interno del sangue a 50 dipendenti il 15 di questo mese. E intanto arriva anche l'annuncio di Roche sul prossimo lancio del test chiamato Elexis, su cui sta lavorando in collaborazione con le autorità sanitarie. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passi avanti in Italia anche per quanto riguarda l'individuazione della app per il tracciamento dei contatti personali, che dovrebbe prevenire il contagio nella fase 2. Il commissario Domenico Arcuri ha infatti firmato l'ordinanza per la stipula del contratto con la società milanese Bending Spoons. Fra alcune settimane anche in Italia si potrà scaricare sul proprio smartphone, su base volontaria, un'app che sarà in grado di ricostruire i contatti ravvicinati con eventuali contagiati dal virus, il cosiddetto contact tracing. Quando una persona sottoposta a tampone risulterà positiva, nel suo smartphone il personale sanitario registrerà questa informazione, che verrà poi distribuita a tutti i telefonini che hanno la stessa app con cui questa persona è entrata in contatto nei 14 giorni precedenti. Utilizzerà il Bluetooth e lo farà su base di codici anonimi. Non sapremo quindi con chi siamo entrati in contatto, ma che abbiamo avuto un incontro a rischio, e ci verrà dunque richiesto di rivolgerci alle strutture sanitarie. La tecnologia sarà efficace solo se l'Italia sarà in grado di aumentare il numero di test e se ci sarà un'adozione massiccia dell'app. Si stima almeno il 60% della popolazione. L'applicazione si chiama Immuni ed è stata progettata da Bending Spoons, una società di Milano che in 7 anni è diventata fra i leader mondiali nello sviluppo di applicazioni per smartphone e che lavorerà per il governo italiano gratuitamente. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto pandemia anche sui dati economici, in particolare parliamo di quelli del mercato dell'automobile, dove nel mese di marzo si evidenzia un crollo delle immatricolazioni, meno 51%. Un risultato disastroso, interamente dovuto all'emergenza coronavirus, in un mercato che nei primi 2 mesi dell'anno aveva contenuto le perdite. Così il centro studi Promotor commenta il crollo a marzo delle immatricolazioni in Europa, con le vendite di auto in calo di quasi il 52%, più di 900.000 vetture in meno, rivelano i dati ACEA. Il risultato peggiore in Italia, meno 85%, FCA perde oltre il 74%. anche se previsto un vero shock per il mercato, sottolinea Promotor. Sul fronte export, a febbraio, prima delle misure restrittive del governo, l'Istat mostra per l'Italia un incremento del 7% annuo. Tra i mercati di destinazione spiccano gli Stati Uniti, male Cina e Regno Unito. Giù l'inflazione, a marzo allo 0,7% nell'area euro rispetto all'1,2% di febbraio, i tassi più bassi allo 0,1 in Italia, Spagna, Cipro e Portogallo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche la Chiesa si interroga sul futuro e sulla possibilità di ripartire. La CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha infatti pronte delle proposte per quanto riguarda i riti come i matrimoni, le messe, i funerali. La Chiesa è con il popolo per superare il momento difficile, ha detto oggi Papa Francesco. Katia Caramelli ha intervistato il sottosegretario della CEI, Don Ivan Maffei. Si sentiamo. Noi siamo da settimane in cui stiamo celebrando come preti per il popolo, ma senza il popolo. Non c'è chiesa quando manca il popolo. Noi proponiamo che con molta responsabilità innanzitutto si guardi al paese, un paese che conosce delle zone rosse, ma conosce anche delle zone in cui per fortuna questa pandemia ha colpito in maniera molto minore. Proviamo a tornare ad immaginare che le chiese possono essere abitate dalla gente con tutte le precauzioni possibili, quindi con un contingentamento delle persone, con un controllo, con il pieno rispetto non solo delle distanze ma anche delle misure sanitarie. Ma oltre alle messe, quello che sta facendo molto pensare è il momento dell'addio, il momento del funerale. 13 e 12 minuti, Effetto Giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalle dichiarazioni poco fa dell'Istituto Superiore di Sanità nella consueta conferenza stampa. Cautela per la fase 2, ha detto Brusaferro, non c'è stato un vero e proprio picco, ha detto Rezza, la decrescita c'è ma il virus non scompare. Allora noi interrogheremo uno scienziato italiano che ha incrociato i numeri, i dati dei vari paesi con le tappe e le modalità con cui nei vari paesi è stata gestita l'epidemia, e quello che emerge è che forse il lockdown non è sufficiente o forse non è l'unica strategia utile in questa fase. 349 238 6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Istituto Superiore di Sanità, il virus decresce ma non scompare, ripartire solo col distanziamento sociale e il rapido isolamento dei nuovi casi. E se la curva non si piega abbastanza è segno che il lockdown da solo non basta, spiega Effetto Giorno lo scienziato Ricci Terzenghi. Fase 2 intanto, il presidente della Lombardia Fontana chiarisce, siamo pronti a ripartire il 4 maggio, sì ma se la scienza ci darà il via libera. No a riaprire la scuola a maggio, così intanto la ministra Azzolina, secondo la quale adesso sarebbe troppo rischioso, ma a decidere sarà il governo. Come saranno i mezzi pubblici nella fase 2? In Lombardia Trenord invia un questionario agli utenti e ipotizza vagoni al 40% della capienza. Tredici e 16 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. È con noi, come anticipato dai titoli, Federico Ricci Terzenghi, docente di fisica teorica all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che ha analizzato i numeri, i dati, in una serie di modelli, i numeri del contagio in Italia e negli altri paesi, incrociando però anche questi dati con le tappe e le modalità con cui in Italia e in altri paesi si sta provando a gestire l'epidemia di coronavirus. Professor Terzenghi, effettivamente, lo ha detto poco fa il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, attenzione, cautela per la fase 2 perché non c'è stato un reale picco, siamo ancora in una fase dove il contagio non decresce perché ci sono nuovi casi, e effettivamente io mi sono andato a riprendere le date, sono passati 46 giorni dalla chiusura delle scuole nel centro nord, 35 giorni dal primo DPCM importante, quello dell'11 marzo, sulla chiusura su tutto il territorio nazionale delle attività commerciali, ma anche 26 giorni dallo stop alle industrie, eppure appunto i contagi non diminuiscono. Lei, analizzando i dati, che tipo di idea si è fatto e intanto che analisi ha fatto su questi dati, professore? Allora, buongiorno a tutti intanto. Guardi, noi abbiamo guardato soprattutto al numero dei decessi, che nonostante abbia dei problemi anche quel dato, sappiamo di ritardi nella comunicazione, nel riempimento del database, però comunque rimane il più affidabile rispetto agli altri numeri, quali il numero dei casi, che dipende fortemente dal numero di tamponi fatti, o le ospedalizzazioni, che ovviamente dipendono dai protocolli utilizzati nei diversi ospedali e in diverse regioni. Quindi il numero di decessi in qualche maniera è uno degli indicatori più affidabili, sebbene abbiamo anche valutato che siano molto sottostimate rispetto ai decessi reali, sì, però rimane un indicatore abbastanza affidabile. Quello che si vede è che mentre in Lombardia l'effetto del lockdown, chiamiamolo versione 1.0, quello dell'11 marzo, ha mostrato degli effetti chiari e il numero di decessi è andato calando, in molte altre regioni importanti come Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, quindi regioni grandi, questo effetto non è stato molto evidente. Quello che lo scenario più semplice che spiega questi dati è che in realtà il valore di R0 si è messo molto vicino ad 1 in queste regioni, quindi si è fermata la crescita esponenziale, ma non è ancora iniziata una chiara decrescita. Che cosa vuol dire che questo R0 è vicino a 1? Non era in qualche modo anche l'obiettivo arrivare a 1 o sotto, meglio forse 1? Ecco, esattamente. Allora, noi da che cosa possiamo imparare? Possiamo imparare da chi ha vissuto questa esperienza prima di noi. Fondamentalmente la Cina e la Corea del Sud, che sono quelle che hanno sconfitto questo virus. In Cina, quando è stato dichiarato il lockdown il 24 gennaio, le analisi scientifiche dei dati hanno mostrato che in realtà dopo quel lockdown anche loro avevano un R0 molto vicino ad 1. E la vera riduzione ad un valore di R0 circa 0,3-0,36 è avvenuto solo quando hanno imposto la cosiddetta quarantena centralizzata. Ora, in Italia imporre le misure cinesi non penso che sia fattibile. Ecco, però un attimo, perché questo è già un punto. Cioè, la quarantena centralizzata, di cosa si tratta? Cioè, lei dice finché sono state bloccate solo le attività economiche, come abbiamo fatto anche noi, anche la Cina si è ritrovata a un certo punto con l'R0 attorno a 1, cioè a 1, un contagio, diciamo, lineare, non esponenziale, ma comunque lineare, che fa proseguire l'epidemia. Invece poi loro che cosa hanno fatto per bloccarla e portarla a 0,3? Ah, questo che è stato chiamato quarantena centralizzata è fondamentalmente un meccanismo in cui tutte le persone positive, ma anche le persone che sono potenzialmente infette, quindi anche prima di fare il tampone, sono state isolate, perché l'unico modo per fermare realmente il contagio, anche quando noi in fase 2 avremo un'app che a un certo punto ci dice sì, tu sei un potenziale persona contagiosa, perché 3 giorni fa sei entrato in contatto con una persona che poi è risultata positiva. Perfetto, a quel punto che succede? A quel punto bisogna intervenire velocemente, il tempo è tutto, non gli si può dire alla persona stai a casa e se peggiori mi chiami, no, perché infetta la famiglia e si continua con la diffusione del contagio. Quella persona immediatamente, tempo 24 ore, deve essere messa in modalità di non continuare a contagiare, prima di diventare contagiosa. Visto che lei ha premesso che per l'Italia diciamo, a tappeto in quel modo, forse non è praticabile una quarantena di quel tipo, però che cosa potrebbe essere praticabile? Perché mi sembra di capire che, come anche forse ieri in conferenza stampa alle 18 è in qualche modo emerso, preoccupano i pazienti in isolamento domiciliare che non sono in grado in realtà di rispettare questo isolamento, e quindi in qualche modo sono loro che stanno continuando a diffondere il virus. Anche perché la crescita lineare è una dei fenomeni previsti dai modelli cosiddetti compartimentali, in cui io non posso infettare tutti, ma già solo che posso infettare le quattro persone che condividono con me la casa, la crescita continua a andare avanti, magari lineare, non esponenziale, ma continua ad andare avanti. Quindi bisogna prevedere dei protocolli che io spero che qualcuno li stia pensando, ma io ancora non li ho letti. A livello nazionale, se in tutta Italia si devono comportare allo stesso modo, anzi addirittura in tutta Europa dovrebbero avere dei protocolli simili, in cui si dà la possibilità a chi è nelle condizioni di essere eventualmente infetto, quindi anche prima di fare il tampone, di mettersi in isolamento. E ovviamente poi, mettiamola così, non vogliamo l'approccio cinese centralizzato, in cui è lo Stato che ti obbliga, ma diamo la possibilità alle persone di mettersi in isolamento se pensano di essere state contagiate. Per esempio, potrebbe essere fatto su base volontaria, però offrendo, come dire, un sostegno. Cioè, si era pensato a un certo punto, e più avanti durante la puntata di Effetto Giorno cercheremo di capire che fine ha fatto la strategia degli alberghi, degli hotel. Esattamente. Che potrebbero essere. Se io ho l'app che mi avvisa che probabilmente sono stato contagiato, sono il primo a desiderare di essere isolato e non tornare a casa dai miei familiari. Certo. Perché se posso proteggerli, quindi se ad esempio il Comune di Roma mi offrisse una sistemazione in un albergo, una cosa dignitosa, cioè non vogliamo fare la caserma, però in questo momento le attività turistiche purtroppo sono ferme, utilizziamo gli hotel attrezzati in maniera tale che almeno io possa aspettare, non c'è la capacità di fare i tamponi a tutti, sto due settimane in hotel, se non sviluppo sintomi a quel punto posso tornare a casa essendo ragionevolmente sicuro di non essere positivo. E stiamo parlando di casi positivi o potenzialmente positivi, ma non necessariamente sintomatici, quelli vengono trattati se necessario in ospedale, stiamo parlando di quella parte silenziosa dell'epidemia che però, a detta degli stessi esperti sul Superiore di Sanità, sta contribuendo ad estendere l'epidemia, e se non la controlliamo probabilmente anche la fase 2 potrebbe essere un pochino più complicata. Io la ringrazio, Federico Ricci Terzenghi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buonasera. Affrontiamo adesso un altro aspetto dell'emergenza coronavirus, perché sta mettendo a dura prova, sta stressando così anche i nostri modelli democratici, come accadde anche, è stato già fatto questo paragone, dopo l'11 settembre. Adesso, oggi, l'emergenza sanitaria contribuisce a erodere una serie di libertà individuali. Ci stiamo abituando a questo, lo riteniamo anche giusto, però questo sta accadendo. Gigi Donelli ne parla domani nel nostro reportage del sabato mattina alle 8:15. E partendo dalla denuncia di Margarida Silva, specialista dei diritti civili dell'ONG CEO di Bruxelles, sentiamo. Stiamo notando come questa crisi possa anche dare a chi voglia farlo la possibilità di attaccare o indebolire la democrazia, e questa è una minaccia davvero grossa. Per molti analisti, l'Ungheria di Viktor Orban rappresenta oggi il caso esemplare di questa minaccia. Budapest ha dichiarato lo stato d'emergenza l'11 marzo scorso e lo ha prolungato il 30 marzo senza termine finale. Questo permette al governo di agire per decreto e con un controllo istituzionale ridotto al minimo. Tra le misure del governo spicca quella cosiddetta contro le fake news, ora punibili con pene fino a 5 anni. Valutare se sono davvero fake o meno spetta al tribunale. Per Julie Majersak, capo dell'ufficio di Bruxelles di Reporters Sans Frontières, si tratta di una chiara minaccia all'indipendenza della stampa. Noi, Reporter Senza Frontiere, temiamo che questa legge possa essere usata principalmente per silenziare media indipendenti e senza peli sulla lingua, e che sono già stati indeboliti da tempo dagli attacchi di Orban. E qui, con il pretesto della lotta alla pandemia, Orban sta mettendo in atto un regime di censura severa, in cui è lui a decidere cosa è vero e cosa è falso, e questo è estremamente pericoloso. Ce qui va être vrai ou faux. Et ça, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Très... 16:25, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Adesso vogliamo parlare della questione dei mezzi di trasporto, i mezzi di trasporto che saranno cruciali sicuramente nella fase 2, i mezzi pubblici per esempio, come garantirli per tutti quelli che ne avranno bisogno, però garantendo la sicurezza delle persone, quindi un posto sì, uno no, il distanziamento sociale. Lo sappiamo, l'abbiamo imparato, quindi i vagoni degli autobus, delle metropolitane, dei treni dovranno essere mezzi vuoti sostanzialmente. Se ne sta occupando in Lombardia Trenord. È con noi il direttore della comunicazione di Trenord, Paolo Garavaglia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io so che avete anche ideato, insomma, sottoposto un questionario agli utenti già in questi giorni per capire anche come sono orientati a muoversi nel momento in cui si parlerà di fase 2, gli utenti stessi di Trenord. Voi in che modo state cercando di immaginare questa riorganizzazione, che immagino comporterà comunque ripensare tutta una serie di cose, ma anche aumentare lo sforzo dell'offerta, perché se i vagoni devono viaggiare mezzi vuoti, come faremo, Garavaglia? Ma guardi, iniziamo a dire questo, che noi abbiamo giocato la carta della collaborazione, perché la collaborazione sarà la parola d'ordine delle prossime settimane, e quindi la prima carta che abbiamo giocato è chiamare in causa subito i nostri viaggiatori per provare a capire come loro intendono ricominciare a muoversi, come reintenderanno la loro mobilità. Per questo abbiamo inviato 540.000 questionari ai nostri clienti profilati, questa è una cosa che è successa 24 ore fa, ma per dirle quanto è sensibile questo argomento, sì. In poche ore ci hanno risposto, compilando un questionario di più di 20 domande, più di 50.000 nostri clienti. Beh, e ovviamente Esatto, ma questo vuol dire che il tema è particolarmente sensibile e che sicuramente questo ci indirizzerà nella definizione innanzitutto della domanda, perché l'offerta si fa sulla base della domanda. Quanti saranno le persone che torneranno a tempo pieno a lavorare? Quanti saranno quelli che si fermeranno in smart working? Oppure quanti saranno quelli che cambieranno i loro orari nella scelta del treno? Perché vede, la mobilità è sostanzialmente la chiave, è il driver della ripartenza. Perché senza capire come si svolgerà la mobilità è molto difficile immaginare una ripartenza ordinata. Senta, avete avuto qualche risposta interessante? Avete già qualche dato sulle intenzioni certo. Degli utenti? E poi le voglio anche chiedere, avete avuto anche un contatto con col comitato tecnico, con la task force di Colao o anche una task force regionale, non lo so, perché qua, cioè, a livello di commissioni stiamo un po' facendo fatica anche a stare lì dietro, ce ne sono molte. Cioè, qualcuno vi ha contattato per darvi delle indicazioni, per avere risposta a alcune di queste domande, cioè quanta gente farà smart working, quindi quanti saranno quelli che non prenderanno i mezzi, perché altrimenti dovete arrangiarvi da soli in pratica? No, guardi, in una situazione come questa arrangiarsi da soli è impossibile, quindi è chiaro che tutti i coordinamenti sono scattati, sia a livello di prefettura per garantire l'ordine pubblico nell'accesso alle stazioni e garantire il distanziamento, sono scattati anche nello studio, nell'analisi dei flussi del traffico, con principalmente con Regione Lombardia. Poi è chiaro che noi siamo disponibili a mettere a disposizione tutti i nostri dati anche agli enti preposti superiori, però guardi, lei mi faceva la domanda sui primi segnali che arrivano da questo mega questionario. Le do un dato soltanto per capire. Abbiamo fatto la domanda su che cosa consideravano del loro viaggio in treno i nostri clienti prima del coronavirus, e tutti hanno risposto sostanzialmente alla puntualità. Oggi alla stessa domanda rispondono l'affollamento. Certo. Quindi vuol dire che il dato sensibile, però questo è molto interessante, sembrerà banale, però il fatto che tutti in meno di 24 ore hanno cambiato sui 50.000 hanno cambiato la priorità, e quindi il tema è, a me interessa che il treno ci sia e che soprattutto sul treno si rispettino le regole. Quindi torno alla parola iniziale, se parliamo di collaborazione diciamo che quando riprenderà tutto, tutti devono collaborare, non si può pensare che ci sia il solito furbetto che vuole salire su un treno dove non si potrà salire perché c'è abbastanza gente. Senta, Garavaglia, in un flash davvero. Però, lei pensa che ci saranno, come dire, mezzi a sufficienza per garantire, torno a quello che ho detto in introduzione, un 40% di capienza, vuol dire meno della metà di quello che si faceva prima, il riempimento dei mezzi. Ma guardi, ce la farete? Sicuramente ce la faremo. In Lombardia, però, lei tenga conto che circolano già 2.300 treni al giorno. La rete è già sostanzialmente satura. Il problema è capire che le fasce orarie si allunghino per tutti. Tutti bisognerà lavorare su quello, sullo scaglionamento delle fasce orarie. Lei tenga conto, guardi, un altro dato molto velocemente, poi chiudo. Noi ogni giorno tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 16 e le 19 della sera trasportiamo 500.000 persone su 820.000 del resto dell'esercizio. Ecco, si rende conto che in 6 ore noi trasportiamo un mondo che non potrà più essere trasportato in quelle ore lì. Quindi qualcuno dovrà fare questi calcoli. Chiarissimo, fermiamoci qua. Grazie Paolo Garavaglia di Trenord, grazie per essere stato con noi. Sarà quindi fondamentale, avete sentito, che gli orari siano seriamente scaglionati, gli orari di ingresso negli uffici, nelle aziende, ovunque, anche dei negozi, credo, per insomma, far sì che queste 500.000 persone non si concentrino in quelle 2 ore al mattino e 2 ore alla sera, ma siano scaglionate. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, 349-238-6666 per i vostri commenti. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Istituto Superiore di Sanità, il virus decresce ma non scompare, ripartire solo col distanziamento sociale, l'isolamento dei nuovi casi. Fase 2, il presidente della Lombardia Fontana chiarisce, siamo pronti a ripartire il 4 maggio, ma se la scienza ci darà il via libera. No a riaprire la scuola a maggio, così la ministra Azzolina, ma a decidere sarà il governo. Pazienti dimessi che devono fare la quarantena o positivi in isolamento, la strategia di ospitarli in hotel non decolla, a Milano solo 150 persone al Michelangelo. Individuata la app italiana per il tracciamento, anonima e senza geolocalizzazione, realizzata da una società milanese. Effetto pandemia sul mercato dell'auto, crollano le vendite a marzo, meno 51%. :13:37, eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo dritti al punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, che oggi è dedicato ad un passo che è stato compiuto, quello dell'individuazione della app che dovrà servire per il contact tracing. Come sapete, abbiamo già parlato nella prima parte di Effetto Giorno, ma sentiamo, perché anche questo passo effettivamente mostra, come dire, alcune spiegolature interessanti. Sentiamo. Il punto di Alberto Orioli. L'app che consentirà il tracciamento di noi italiani in modo da segnalare i contagiati e i rischi di contatto e di diffusione del coronavirus è una buona cosa, ma rischia di essere emblematica di ciò che sta accadendo nella gestione complessiva della crisi. L'appalto è stato gestito e affidato dal supercommissario Domenico Arcuri alla società Bending Spoons SPA. L'idea della app era stata anche accreditata come prima soluzione anche dalla task force presieduta da Vittorio Colao, che avrebbe voluto estenderla anche alla concessione delle autorizzazioni a circolare in deroga ai divieti della quarantena. Della app poi si occupava anche un pool di esperti voluto dal Ministero dell'Innovazione, di cui però sembra essersi persa traccia. Nel frattempo la Regione Lombardia ne ha lanciata una sua propria, una ennesima fuga in avanti nel momento in cui l'Europa invita tutti gli Stati membri a dotarsi di sistemi di tracciamento in grado di dialogare tra loro, perché il monitoraggio ha successo solo se è su vasta scala. E a questo proposito l'app scelta oggi è legata alla sola adesione su base volontaria e avrà una base dati minima per poter funzionare solo se otterrà l'adesione di almeno il 60% degli italiani. Vista la confusione, secondo voi come finirà? Si accettano scommesse? Il punto di Alberto Orioli. :13:39, è con noi l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, riprendiamo l'argomento che abbiamo trattato nella prima intervista al professore Terzenghi, per quanto riguarda, avete sentito, la necessità di controllare l'epidemia dal punto di vista dei positivi, magari asintomatici, o delle persone ancora contagiose perché dimesse agli ospedali, che rimesse nelle loro case però rischiano, come dire, di diffondere il contagio, cioè il controllo dell'epidemia sul territorio. Si era pensato di utilizzare alberghi, hotel, c'è stata un'offerta anche degli agriturismi della Lombardia, ricordo tempo fa, come strategia proprio per far questo. Una delle prime soluzioni adottate è stata a Milano con l'hotel Michelangelo. Maran, un progetto che avete avviato voi, tra l'altro, però è forse l'unico, e non si riesce a capire bene come mai questa strategia non stia effettivamente decollando, perché sembra, come dire, sarebbe un alleato fondamentale in questa fase. Quali sono i numeri fino ad ora di questo progetto? Ma dunque, buongiorno. All'Hotel Michelangelo attualmente sono ospitate un po' più di 150 persone a fronte di una capienza che è sui 280-300. Poi a Milano ci sono anche già due strutture pronte, anche quelle abbastanza vuote, che sono l'ex ospedale militare di Baggio e un altro hotel in zona Linate. Noi abbiamo avviato il progetto del Michelangelo perché, ascoltando gli esperti, ci sembrava già da diverse settimane che la frontiera in che ci saremmo dovuti trovare ad affrontare ad aprile sarebbe stata proprio quella dei contagi familiari. Sì. E quindi avere dei luoghi sicuri per la quarantena ci sembrava indispensabile. La difficoltà non mi pare sia oggi avere delle strutture, ci può essere una difficoltà logistica di attrezzare dei servizi di assistenza nelle strutture, ma il problema principale è quello che secondo me stiamo vivendo almeno in Lombardia dall'inizio della crisi sanitaria, cioè il fatto che essendo un sistema fortemente legato all'ospedalizzazione non riesce a seguire al meglio il paziente fuori dall'ospedale. Quindi noi ne ospitiamo 150 perché a livello sanitario nessuno ce ne manda di più, forse perché proprio manca quel pezzo di lavoro. È davvero curioso, perché effettivamente, come ha detto lei, questo sta emergendo, diciamo, l'avere confinato la lotta all'epidemia all'interno degli ospedali è stata una scelta necessaria forse in una fase iniziale, ma che poi nel tempo gli esperti ci stanno dicendo non è vincente, perché bisogna controllare l'epidemia anche sul territorio per evitare che si allarghi e che poi si ricreino dei casi da terapia intensiva, quindi di nuovo si torna negli ospedali. Quindi però, diciamo, coinvolgere il comune, l'ATS, che dovrebbe forse dare le direttive, e gli alberghi, è proprio questo, cioè decongestionare gli ospedali. Dov'è che si sta bloccando questa strategia? Cioè, per esempio, i pazienti dimessi dagli ospedali, quelli sono fuori dal ciclo, come dire, dell'emergenza, della protezione civile, degli ospedali, eccetera. Quelli forse sono competenza del comune, cioè toccherebbe a voi prenderli capire. Guardi, non voglio assolutamente utilizzare questi momenti per fare polemica, però è proprio la difficoltà, secondo me, che oggi il sistema sanitario regionale, non essendo mai stato strutturato per questo tipo di servizio, anche oggi che tutti dicono che serve fare questa cosa, fanno una fatica incredibile a riorganizzarsi e ad attrezzarsi per questo fine, al punto che su lunedì abbiamo avuto anche un po' di polemica su questo, non ci risultava nemmeno che fosse stata data un'indicazione chiara agli ospedali che dimettevano i pazienti su come si poteva accedere a queste strutture. Cioè, bisogna dire alle persone: guardate, c'è un numero di telefono, chiamate, ci sono degli hotel disponibili, eccetera, eccetera. Sì, questo non viene fatto. Più che le singole persone, ai medici che li dimettono e ai medici curanti, perché poi giustamente essere un filtro. Medico a riguardo. Sì, però non vorrei che a forza di filtri, come ci sta infatti confermando lei, non si riesce a organizzare. Sì, è questa la difficoltà. Dopo la polemica di lunedì, noi siamo passati da 100 a 150 ospiti, quindi è cambiato, insomma, si sono un po' allentati quei filtri e un po' di persone stanno utilizzando questi servizi. Forse serve anche un'azione maggiore rispetto a quelli che non sono passati negli ospedali, perché poi fare la quarantena in casa in sicurezza senza mettere a rischio i familiari non è facile, perché bisogna avere una stanza autonoma, bisogna avere un bagno diverso dagli altri membri della famiglia, bisogna avere le mascherine, le protezioni per evitare contatti. Bisogna essere molto rigorosi e non è semplice. Non è un meccanismo semplice, e poi se pensiamo a Milano, poche case hanno anche proprio le caratteristiche tecniche per permettere di fare una quarantena in sicurezza. Quindi anche lì forse un'attività di sondaggio, di questionario migliore a chi non è mai stato ricoverato ma ha dei sintomi, oltre al fatto che poi abbiamo tanti che hanno il Covid ma non hanno fatto ancora il tampone. Allora, da quel punto di vista poteva agevolare per evitare e bloccare quest'ultima sfruttiamo coda. Sfruttiamo allora almeno questo tempo per dare un messaggio, diciamo, positivo, incoraggiante e costruttivo. Allora, il comune fa sapere che ci sono a disposizione, oltre al Michelangelo, altri hotel, altre strutture, no? Che ci sono perché chiaramente poi verranno rimborsati, anche se il Michelangelo credo che abbia detto volerlo fare gratis, se ho capito bene. Sì, c'è solamente un rimborso delle spese vive certificate della struttura. Però devo dire, tanti hotel si sono messi a disposizione, circa una sessantina, noi ne abbiamo già vagliati e ce ne sono 15 che hanno caratteristiche a nostro giudizio. Quanti idonee, posti avremmo a disposizione, cioè, a Milano? Siamo nelle varie migliaia. Ecco, quindi, però diciamo, fino a quando uno non riempie i primi 300 non si mette ad attivare il certo, secondo, ovviamente. Assolutamente. Allora, diamo questo messaggio un po' a tutti, cioè sappiamo che è possibile organizzarci in questo modo. Pazienti dimessi dagli ospedali curati come Covid che devono fare la quarantena, familiari di pazienti che devono stare in isolamento, positivi al tampone o sospetti positivi al tampone che sono a casa in isolamento domiciliare, che è molto difficile da condursi. Sappiate, medici di famiglia, io non so a chi altro rivolgere questo appello, che si può fare. Lo faccia lei un appello, Maran. No, questo ci stiamo lavorando, bisogna contattare l'ATS e la propria SST, se sul caso di Milano e della Lombardia, in modo da essere poi indirizzati e vagliati se il paziente ha le caratteristiche per entrare in una struttura di questo tipo. Chi è che fa questo vaglio però, scusi, perché se io sono un medico di famiglia e ho un paziente e lo voglio orientare... C'è una commissione medica con dentro, c'è anche il medico del comune di Milano dentro, ci sono tre medici che vaglia se il paziente è idoneo, perché ci sono alcuni casi, ma non è il numero di rigetti quello che ha impedito di crescere come numeri, il problema è il numero di domande scarse che è arrivato, per cui può non essere adeguata la struttura rispetto ad alcune patologie del paziente, insomma. Certo, bisogna vagliarlo dal punto di vista clinico, perché non è che chiunque può andare in albergo, però, certamente. Però non chi ne ha una patologia, 150, certo. Perché ne abbiamo rifiutati 1000, ne abbiamo 150 perché abbiamo rifiutati pochi, ma perché sono arrivate poche domande dai vari canali. Va bene, grazie Assessore Maran, grazie per essere stato con noi. Speriamo che si metta in moto questo meccanismo, che sembra a tutti gli effetti un meccanismo virtuoso, perché gli alberghi, anche se solo sotto forma di rimborsi, avrebbero comunque, come dire, anche tutto sommato un introito economico nel momento in cui sono fermi, sono chiusi. È l'unico modo per garantire, anche in una forma tutto sommato accettabile, perché certo separarsi dalle proprie famiglie non fa piacere a nessuno, però si va in albergo dove viene offerto anche il pasto e si è sicuri di non contagiare nessuno, ed è l'unico modo per contenere questo contagio territoriale che si sta dimostrando in questa fase difficile da arrestare diversamente. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Giulia Crivelli, Giornali Internazionali.